665. Budino nero. Questo budino si fa talvolta per consumare le chiare d'uovo e non è da disprezzarsi. Chiare d'uovo numero 6, mandorle dolci grammi 170, zucchero in polvere grammi 170. Sbucciate le mandorle, asciugatele bene al sole o al fuoco, tritatele con la lunetta e mettetele al fuoco in una cazzaruola quando sarà sciolto lo zucchero. Dopo che il miscuglio avrà preso il colore del croccante, ossia della buccia di mandorla, versatelo in un mortaio e, ghiaccio che sia, riducetelo in polvere. Mescolate questa polvere alle 6 chiare montate, mettete il composto in uno stampo unto col solo burro ghiaccio e cuocete a bagnomaria per servirlo freddo.